Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 13 agosto, buongiorno a tutti e a tutte da Antonella Cortese, in particolare a tutte le persone ristrette nel carcere della Dozza e in tutte le case circondariali dell'Emilia Romagna. E bentrovati di nuovo insieme su Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa ponte tra carcere e città e che va in onda su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lepida TV. Oggi siamo in compagnia di Ignazio De Francesco, che ci accompagnerà per tutto il mese di agosto e per questa trasmissione che è condotta da me e da Caterina Bombarda. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, diciamo anche salam aleikum a tutte le persone di fede islamica, e anche non solo, perché vuol dire pace a voi, che oggi è il venerdì, il giorno della loro preghiera, e ricordiamo ovviamente che abbiamo anche la nostra rubrica di spiritualità islamica a seguire il buongiorno di Liberi Dentro. Infatti è proprio così, ma intanto vorrei ancora ringraziare per l'ultima volta prima dei premi speciali chi ci consente oggi di essere qui e di fare questa trasmissione insieme a voi, e cioè tutti i donatori che hanno partecipato al crowdfunding sulla piattaforma di Ginger. Passiamo a te Ignazio, di che cosa parliamo oggi e con chi? Dunque, oggi abbiamo un testo bellissimo a chiusura di questa settimana di Voci dal Carcere di Joseph che non ha timore di raccontare nella sua lettera quanto la religione possa essere complice del crimine. Complice del crimine? Scusami Ignazio, ma è possibile una cosa del genere? Perché si dice che la religione, qualunque essa sia, proibisce il crimine in realtà, o no? È proprio così, la religione ha un'etica, ogni religione ha la sua etica, e quindi la religione ti dice non puoi fare, non puoi uccidere, non puoi rubare, non puoi fare violenza alle donne, ma accade che possa essere così. Sentite cosa scrive il nostro Joseph. Pregavo il santo di turno preparandomi a commettere reati, quasi che l'intercessione di una figurina potesse garantire buon esito ai miei intenti. Noi di solito quando si parla di rischio di reati, religione, reati, si pensa al terrorismo islamico, i radicali, eccetera, eccetera, ma c'è una cosa molto più preoccupante per quanto riguarda l'Italia, quel cortocircuito tra crimine e religione che avviene per esempio nella religiosità mafiosa, in cui la persona che esce per uccidere qua è Joseph, che racconta, si affida per esempio a San Michele Arcangelo o a qualche altro santo come protettore del suo crimine. E lui aggiunge: in carcere tutto è diverso. Chi si confronta con se stesso cambia il proprio approccio al mondo in maniera profonda. Allora noi troviamo un altro accenno a quello che il carcere è una cosa che non auguriamo a nessuno, e tuttavia può essere un momento in cui uno si ferma e riflette su quello che ha fatto, sugli errori e anche su ciò che ha portato a commettere certe cose, tra cui ci può essere un certo modo di vivere la spiritualità. Scusami Ignazio, ma in carcere che cosa è accaduto per lui? Joseph racconta nel suo testo l'altra faccia della religione, a cui noi diamo anche spazio nei nostri programmi. La religione l'ha aiutato a rimettersi in piedi, e lui dice: mi sono riavvicinato a Gesù, dice, sono riuscito ad ascoltare la chiamata tra i tanti rumori che la disturbavano, perché ho incontrato un religioso che, ispirandomi fiducia, mi ha accolto senza domande scomode sul mio passato e soprattutto senza chiedermi perché quel giorno io fossi a messa. Allora, noi, come ben sapete, quelli che ci ascoltano e anche tra noi, la cosa è chiara. Se uno dice che Dio non esiste, ateo, nessun problema, se uno è buddista, se uno è musulmano. Quindi per noi è un diritto della cittadinanza, il diritto religioso. Si può riconoscere che in carcere, come il caso del Joseph, la chiamata religiosa oppure spirituale, la scoperta del mondo interiore, lo ha aiutato a rimettersi in piedi, ed è passato, questo è molto importante, non attraverso la lettura di un libro, poteva essere anche il Vangelo piuttosto che il canone buddista, ma attraverso l'incontro con una persona che l'ha accolto come lui è, e gli ha ispirato fiducia. Non c'è una vera religione senza un rapporto personale. Scusa Ignazio, voglio fare l'avvocato del diavolo, spero che Joseph non ne abbia male, anche se credo nelle buone intenzioni di Joseph, però non è che va a caccia di qualche vantaggio, insomma un po' una religione, anzi una religiosità interessata? Lui dice, per alcuni è una sciocchezza andare a messa, per altri siamo solo degli opportunisti in cerca di un aiuto per un permesso. Quindi c'è queste cose, sono nella vita carceraria, tutto può essere utile, non bisogna giudicare le persone, bisogna provare una settimana di carcere per sapere che cos'è il carcere, la porta che si chiude dietro di te. Però lui dice una cosa che mi sembra bellissima: ho visto tanti preghiere cristiane di altre religioni, quello che però più mi colpisce è che le intenzioni delle preghiere quasi mai sono egoiste. Il carcere insegna che cosa sia la vera sofferenza, cosa sia la fame degli affetti. E così il più delle volte si prega con dedizione per gli altri, affinché i nostri cari siano bene. E cioè viene dal carcere una preghiera non per se stessi, ma per gli altri. Questa è una cosa, un dono bellissimo, sapere che le persone detenute sono incapaci anche di pregare per noi. Benissimo, questa è una cosa molto importante. E Ignazio, che cosa vogliamo dedicare proprio a Joseph? Allora, a Joseph e a Mario, a Mario soprattutto e a Joseph, voglio dedicare una cantante ancora siriana, Lina Shamayan, che canta alla Maujil Bahar, sulle onde del mare. Dopo aver ascoltato la bellissima canzone Sulle onde del mare che abbiamo dedicato a Mario e a Joseph, andiamo in Africa. Torniamo di nuovo in Africa per il nostro venerdì animalesco. E dall'Africa ci giunge in realtà un grido d'allarme per la tutela di affascinanti animali a rischio di estinzione. Noi spesso trattiamo di animali a rischio di estinzione perché veramente sta diventando imperativo renderlo noto. E questi animali vivono a Capo Verde, Guinea-Bissau, Senegal, Gabon e sono alcuni dei paesi africani visitati ogni anno dalle tartarughe marine, che tornano sempre nelle stesse spiagge per riprodursi. E questo è un meccanismo che non sappiamo perché avvenga, tra l'altro. È uno spettacolo straordinario che è sempre più minacciato dall'uomo. Oltre che straordinario, è uno spettacolo commovente che lascia veramente senza fiato, perché è anche un grande enigma. Come vi dicevo, noi non sappiamo perché centinaia di migliaia di tartarughe marine si radunano ogni estate davanti alle spiagge sabbiose dell'Africa per riprodursi e nidificare. Si danno dunque, a... sì, dunque che cosa sappiamo delle tartarughe e dei loro viaggi? Beh, prima di tutto sappiamo una cosa importante. Sembra che le piccole appena nate siano in grado di immagazzinare le coordinate geomagnetiche del nido, consentendo una sorta di imprinting ambientale per permettere appunto di poter tornare una volta adulte al luogo d'origine. Quindi lo riconoscono e ritornano per nidificare. Questa è una cosa molto interessante. Inoltre sono tanti tipi diversi di tartarughe che si differenziano ovviamente per forma, colore, dimensione. Pensa Ignazio che gli adulti possono raggiungere i 140 cm di lunghezza, quindi sono belle lunghe, ma addirittura i 160 kg di peso. Poi ci sono quelle più diffuse, c'è la tartaruga verde che si chiama Chelonia midas, c'è la famosa caretta che abbiamo anche sulle nostre spiagge, in realtà la tartaruga comune, oppure la Lepidochelys olivacea, la tartaruga bastarda olivacea, e poi quella più grande in assoluta, detta anche tartaruga liuto o dorso di cuoio, che è la più grande al mondo, che è la Dermochelys coriacea. Come tutti i rettili, sono a sangue freddo, e cosa che le porta a prediligere le acque temperate. Ma i loro perpetui spostamenti tra mari e oceani, durante i quali percorrono migliaia e migliaia di chilometri, restano veramente avvolti nel mistero. Quindi, insomma, è un viaggio, un'avventura di questo mondo delle tartarughe. E, quali sono le cose che minacciano questa specie marina straordinaria? Allora, prima di tutto ti dico che la tartaruga tanto lenta, in realtà fa dai 20 ai 35 km orari sott'acqua. Poi ci sono animali più veloci, tipo, che ne so, lo squalo corre 60 km orari. Ma essendo dotati di polmoni, devono spesso tornare in superficie a respirare. Poi, tra l'altro, voglio anche specificare che si nutrono di molluschi, crostacei, pesci, medusi, però purtroppo nei loro stomaci finiscono sempre di più sacchetti, buste, tappi, bottiglie di plastica e altri rifiuti. E questi sono veramente diciamo gli elementi che rendono sempre più difficile la presenza di questo animale nel mare. Si moltiplicano dappertutto le segnalazioni di tartarughe spiaggiate e in fin di vita. La popolazione di questi animali sta drammaticamente diminuendo. Questo è l'allarme lanciato da uno studio condotto in Africa dal segretario per la Convenzione sulla conservazione della specie migratrice degli animali selvatici CMS, collegato al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Il calo medio, Ignazio, della popolazione registrato negli ultimi 20 anni sfiora il 30%, quindi veramente sono in grave pericolo. In alcune aree di riproduzione, specie nella costa atlantica, si è giunti ormai al limite dell'estinzione, ed è tutta colpa dell'uomo, se ci pensiamo su. Se mi consenti però, visto che la settimana scorsa hai parlato del cinghiale, io vorrei, prima che lanci il tuo brano musicale, vorrei dire che ha fatto la figura un po' del tipaccio, il cinghiale, questo, ma mi è capitato proprio nel bosco qualche giorno fa di incontrare, imbattermi, una cosa abbastanza tremenda, un cinghialotto aggredito da un lupo. Ecco, e dalle urla, ecco, delle cose che dalla battaglia che ho visto nel bosco, ti dico che, ecco, ho provato una grande simpatia stavolta per il cinghiale. E magari la prossima ci parli anche del lupo. Senz'altro, Ignazio, perché il cinghialotto piccolo fa veramente tenerezza, è un puffettino, comunque. In realtà adesso passiamo al brano, che ne dici? Ti voglio far ascoltare una regina della musica, che si chiama Cesaria Evora, che è probabilmente la cantante di morna più conosciuta al mondo, che era soprannominata la diva a piedi nudi. E la canzone che lanciamo è Sodage. Ascoltiamola tutti. Che mostrabes camino longe, che mostrabes camino longe, es camino passando me. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem inclão. Saudade, saudade, soldatis mia terra se n'inclau. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando me. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando me. Aver ascoltato Cesare e Evora. E passiamo la parola all'intervista di Caterina Bombarda, Franco Bonsoli. A te Caterina. Ben ritrovati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Oggi è venerdì ed è il nostro ultimo appuntamento con l'ospite della settimana, che per noi è stato tutta la settimana Franco Bonisoli. Bentornato Franco, buongiorno. Grazie, buongiorno Caterina, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Franco, abbiamo ripercorso tutta la tua storia, dagli anni di piombo, la vita in carcere e la giustizia riparativa, e oggi parliamo dello yoga, che per te è stato davvero un'esperienza liberante. E come hai scritto lo scorso anno nella tua tesi sulla formazione nello yoga Ratna, scrivevi: i passaggi fondamentali della mia vita sono sempre stati contrassegnati da un incontro. Uno di questi incontri è stato quello con Gabriella Cella, la tua insegnante di yoga incontrata quando eri in carcere a San Vittore. Un incontro che si potrebbe dire liberante per l'appunto, tant'è che poi non hai mai smesso di praticare questa disciplina. Raccontaci tu qualcosa. Sì, ho conosciuto Gabriella Cella nel 1986, a cavallo, diciamo, delle aperture date dalla legge Cozzini, quando i volontari iniziavano ad entrare in carcere. E tra cui ho conosciuto lei ed è stata un'esperienza importante, perché inizialmente io concepivo lo yoga magari come una ginnastica sofisticata, invece ho cominciato a intenderla, soprattutto secondo il suo insegnamento, come una capacità di ascolto attraverso il corpo, il respiro, di te stesso, cominciare a entrare più dentro te stesso e riuscire a capirti. E quindi questo è stato una cosa fondamentale, mi ha aiutato a gestire e a controllare la rabbia, il sentimento di rabbiosità che ti viene di fronte a qualsiasi momento, dei rapporti, anche le cose che vedi in carcere, sono tanti motivi, per tanti momenti in cui ti può venire fuori questa cosa, mi ha aiutato molto a gestire queste cose. Quindi ho continuato a praticare sia in carcere prima e poi anche una volta uscito. Attualmente sono, poi fatto la scuola, sono insegnante, insegno, e ok, fa parte delle attività e soprattutto la parola insegnante è una cosa, diciamo, che mi piace praticare con altri. L'esperienza fatta in carcere è stata importantissima per me, mi ha aiutato proprio a cercare di rivedere e rifare tutti i conti con quello che è il mio limite. Una persona inizia a fare i conti con quello che è il suo limite. E credo che questo sia molto importante, se è un'esperienza. Io poi ho studiato questo tipo di esperienze, sono stato un po' nel mondo, sono più fuori dall'Italia che in Italia, sono stati importanti per riuscire a aiutare le persone a ritrovare se stessi e a rivalorizzare se stessi. Il concetto dello yoga Ratna, quello che io pratico, che ho imparato, è quello, parte dal presupposto che dentro ogni persona, qualsiasi cosa abbia fatto, qualsiasi cosa possa essere, c'è dentro un gioiello, una perla. Il problema è che spesso questa perla viene nascosta, noi non l'andiamo a cercare. Allora, attraverso un percorso di pratica, di ascolto, attraverso il corpo e il respiro, andare a scoprire questa perla che c'è dentro di noi. Abbiamo bisogno spesso di qualcuno che ci aiuti, di farlo insieme ad altri. E io credo che nel carcere sia una cosa interessante. Su questo ci sono state delle esperienze molto importanti, anche ad esempio in India, faccio vedere questo testo che è stato una cosa che cui ho studiato, di Kiran Bedi, questa grande direttrice che ha portato a sviluppare nel carcere più numeroso e più duro dell'India, a ridurre la recidiva del 75%. Attraverso la pratica dello yoga, della meditazione, E quindi penso che senza aspettarci immediati risultati così rapidi e importanti, potrebbe essere utile anche che venisse presa in considerazione dall'istituzione per un benessere di tutti. È un invito che mi interessa approfondire con te tra poco dopo la musica. Rimanete con noi. Qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso. Inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale. Stiamo parlando con Franco Bonisoli, che come sapete è stato ospite con noi tutta la settimana su Liberi Dentro Edu Radio, a questa volta a proposito dello yoga Rasana che lui pratica da diversi anni. Mi ha colpito, Franco, in un'intervista che hai fatto per noi con Edu Radio da Parma, quando nella tua tesina sullo yoga parli del Kintsugi Oro, ovvero l'arte giapponese di mettere insieme i cocci con la polvere d'oro. È una tecnica che ci fa pensare anche alla resilienza, cioè alla capacità di ricomporre anche le nostre vite con molta attenzione, con molta cura. E per questo volevo chiederti che significato ha avuto per te questo tipo di yoga mentre eri detenuto e se credi, come per l'appunto hai detto prima, che in carcere praticare yoga possa essere una cura in qualche modo. Sì, allora, per me in carcere praticare yoga può essere una cura per tutti. Non parlo solo dei detenuti, parlo anche del personale. Io ho fatto degli incontri in una casa di riposo dove c'era mia madre e l'ho fatto sia con gli anziani, è stato divertentissimo, ma prima di tutto con il personale, perché il personale che lavora in comunità dove c'è sofferenza in qualche modo è il luogo stesso, come ci insegnava Gabriella Cella, che ti assorbe le energie attraverso la pratica dello yoga. Anche chi lavora in queste istituzioni riesce a recuperare la propria energia, a ritrovare quello status, quella forza che gli permette di svolgere meglio le proprie giornate, quindi il proprio lavoro in modo migliore. E quindi questa è la prima cosa che io tendo a dire. Ecco, il discorso del Kintsugi è una cosa che mi ha richiamato, poi ho fatto la tesi per il terzo anno di scuola, perché era interessante questa tecnica di concepire la possibilità di ricomporre le fratture, no? E questo lo vediamo nella vita delle persone che hanno fatto un reato e poi hanno rotto dei rapporti, non solo con l'istituzione, spesso si rompono anche con la famiglia, con gli amici, cioè c'è tutta una catena di fratture. Allora avere la capacità di andare a cercare questi cocci e cercare di ricomporli in una situazione, in un momento in cui siamo abituati, quando si rompe un rapporto, basta, chiuso, si spazza via e se ne trova un altro, no? Come quando si rompe qualcosa, oggi nella società dell'opulenza si rompe un vaso, lo butti via, tanto ne compri un altro a poco prezzo, non ha importanza, ma buttando via ciò che si è rotto, butti via un pezzo della tua identità, butti via un pezzo della tua memoria, tu non te ne rendi conto. Provare a ricomporre queste cose penso che sia molto importante, non è detto che ci si riesca, ma il tentarlo e soprattutto la tecnica del Kintsugi, quello che è bello, che la frattura dei vari pezzi si ricompongono con della, si ricoprono con della polvere d'oro. Quindi un vaso che si rompe, si ricompone, non è più lo vaso di prima, perché comunque ha delle fratture, ma le fratture non le nascondiamo, le evidenziamo, anzi, le ricopriamo d'oro. Se guardiamo bene un po' quello che ho fatto come esperienza con la giustizia riparativa, eravamo in una società dove c'è stata una grande frattura e in alcuni casi abbiamo avuto modo di ricomporlo, ricomporre queste fratture, ma non solo le abbiamo ricomposte, ma abbiamo fatto di più, le abbiamo ricoperte d'oro e sono nate delle amicizie, delle relazioni che oggi vengono accolte nelle scuole, dai giovani, come messaggi per un vivere civile migliore e più umano e più bello. Franco, io ti ringrazio a nome anche di tutti i nostri ascoltatori e della redazione di Liberi Dentro e spero che ci siano delle domande su questo, che magari ti invieremo sicuramente come redazione. Scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com per fare delle domande a Franco Bonisoli o scrivergli le vostre riflessioni. Lui sicuramente le leggerà e naturalmente Franco ci risponderà, magari anche in diretta, magari lo facciamo una volta. E ti ringrazio tanto, ti saluto. Grazie a voi e soprattutto grazie per tutto il vostro impegno, quello che fate che è verso il carcere, che penso che sia la cosa più importante. Grazie. Grazie Franco, a prestissimo. Ed eccoci di nuovo insieme dopo l'intervista di Caterina Bombarda a Franco Bonisoli per chiudere questa settimana insieme. E oltre a ovviamente augurarvi buon fine settimana, vi augurerei anche buon Ferragosto perché tra un paio di giorni è Ferragosto, siamo proprio nel periodo più caldo dell'estate, ma continuate a seguirci perché subito dopo va in onda la rubrica Islam, Religione e Civiltà e poi anche Voci dalla scuola, la rubrica a cura della professoressa Lorenza Cenacchi. Vi ricordiamo inoltre che Liberi Dentro va in onda sempre dal lunedì al venerdì su Radio Città Fugico, Teletricolore e Lepida TV. Quindi un caro saluto a tutti e restiamo insieme anche nel fine settimana con le nostre rubriche. Un saluto da me, Antonella Cortese, buon Ferragosto. Un saluto da Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e Enea Flacco. A presto! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.